10, c'è qualcuno qua? Sì, dottor, buongiorno. Ciao Gianmarì, buongiorno, buona domenica anche a te. Si è cambiato tutto in famiglia da Natalia. Come ci va, oggi? Dimmi, mi sono abusato avai nobi. Ma non ho visto nessuno, no? Ma, a dire la verità, non ho sentito nessuno. Ancora addormentati sono. E allora, prima fanno le ore piccole e poi non la possono sopportare, Gianmarì. Sono tutti, se lo posso permettere però, Infatti. Va bene. Già va bene ugualmente, dai. È caldo, oggi fa caldo anche. Mi sa che dopo pranzo vado e mi faccio e mi vado a fare un giretto, per non rimanere rinchiuso qua in prigione. Se uno può uscire bisogna uscire, perché se te rimani in casa sta più male che bene, per cui bisogna uscire. Meno male io ho quella campagna, ogni tanto scendo e mi svago, capito? Se no è un mortorio. Infatti ha stancato in casa, gli ha sopravvissato abbastanza da là, dove? Magna coca, boh! Ma siamo diventati mandroni in tutto però, Infatti, mandroni, io non stavo bene per quello che non uscivo. Adesso stasera dopo pranzo mi sa che vado e mi faccio un giretto. Fai bene. Se uno può uscire bisogna uscire. Un giretto lì a Platanona, farsi un giro, un gelato e tirare avanti. Infatti, e così faremo. Oggi tutti mandroni o sono in giro, o sono drummidini. Non è entrato anima viva oggi. Oggi ne stanno approfittando, a che ora mi sono fatto tardi, erano le 10. Mi sono rinfrescato. Certo, ho già fatto la luce mia, eccoci qua adesso, bello fresco, tranquillo. E io invece me ne sono alzato alle 7 come al solito. Magari prima me ne stavo preso, non lo so, cosa faccio in terra? Tanto uscire o non devo uscire, per cui cazzo, mi proseguo così chiacchierando a mezz'ora, hai capito la tazza? Infatti. Per carità, se mai cazzo. Cazzo, guarda, non vedi allora Benzammini, cazzo. Magari scendendo, non riesci a dormire, però non la fai a pesarsene in ghiaccio, capito? E io di solito, sempre alle 8 me ne alzo e faccio colazione, io e lì. E dopo mi sono andato poi drettare letto, così non dormo, però sveglio, capito? Chiacchierando fino alle 10:30, 11, dopo me ne alzo ed eccoci qua. Infatti io me ne sono alzato, ho preparato la colazione a me e alla signora e poi mi sono tornato a coricare, ma noi realmente non ho dormito nulla. Me ne sono tornato a alzare poco fa e mi sono seduto qua, cosa vuoi va? Allora mi gozzo la doccia e dopo prepariamo qualcosa per pranzo. Va bene. Va bene. Io sono già fresco. Tutto fresco, per cui sto bene adesso, ecco. Una bella doccia mi ha fatto veramente bene, per cui sono tranquillo adesso. Adesso tra poco cominciamo a preparare e tira a campare. Tanto siamo bisogni da noi, annoiati sempre. E anche io con mia moglie sempre soli siamo. Noi siamo sempre soli da parecchi anni già. Ah, ci sono c'è mio figlio e mio nipote di fronte a me. Ma anche quelli se ne alzano tardi, per cui la mattina se ne alzano tardi, anche a mezzogiorno quelli se non stanno lavorando, già se ne alzano tardi anche loro. Per cui insomma siamo soli e ogni tanto già entrano anche loro là, e per cui ci fanno compagnia. E la domenica ne approfittano, se uno lavora ne approfitta a riposarsi. Ci sentiamo dopo la mattina. Dice la signora adesso, dai, ci sentiamo dopo. E ciao Giomari, dai, che adesso entro e mi faccio la doccia. Ci sentiamo.